Ciao, buongiorno a tutti quanti. Si sta avvicinando la Natale con la speranza che Papà Noel porti a tutti noi algún presente. È evidente che siamo gente adulta, ma anche questo non dobbiamo mai lasciare perdere questa speranza. È in speciale per i bambini. Questo periodo dell'anno è importante per l'illusione, per giocare, per la stessa speranza del maggiore. Alla fine di tutto questo, credo che il maggiore scopo di tutti quanti è trovare la bontà nel cuore, nell'anima. Non dobbiamo lasciarla rimanere soltanto in questo periodo. Dobbiamo definire questa come una abitudine in tutto l'anno. E nel mio paese si avvicina anche il giorno di Re. Gli uomini saghi, e addirittura il mio anniversario, è il mio dia di nascimento, e aspettiamo deseos, aspettiamo approfittare questo giorno. Aspettiamo raggiungere i nostri scopi, non soltanto in questo giorno, ma in tutto il prossimo anno e le prossime anni, che per parlare la verità veniamo lavorando in questo progetto circa, non lo so, forse 3 anni, forse più, ma siamo pronti a raggiungere in modo più liquido questi scopi. Va bene, è evidente che tutti quanti abbiamo scopi nella vita nostra, io aspetto di cuore che tutti quanti possiamo raggiungere i nostri scopi, i nostri progetti, i nostri progetti di vita. Va bene, lo so che ancora è troppo pronto per parlare di buona Natale, ma forse sono adelantato, mi adelanto, ma il mio desiderio è che possiamo fare una felice vacanza, una felice Natale, di un felice anno nuovo. E resta un mese per finire il 2019. Con l'avvenimento del 2020. Le migliori desiderio per tutti quanti. Grazie a tutti e buongiorno.